io non ho detto che la Lega andrà col centro-sinistra, io ho detto che la Lega sta perdendo voti, sta perdendo consensi, le ultime amministrative sono state una catastrofe per la Lega, punto primo. Punto secondo, il feeling Bossi-Berlusconi alla fine, non perché i due non si amino, ma perché sono due leader ormai al tramonto, insomma non occorre essere dei geni per capire che ormai Berlusconi così all'ultimo giro, che ne dicano i suoi laudatores, e che Bossi è nelle condizioni in cui è, e non voglio dire altro. Quindi arriveranno le seconde linee sono gli Alfano, i Maroni, gli Alfano del PDL, i Maroni o altri nella Lega. Tutto questo non avverrà in maniera indolore, perché la lotta di successione nel PDL e nella Lega sarà una lotta sanguinosa, mettiamocelo bene in testa. A questo punto è evidente che le vecchie alleanze, i vecchi modi di pensare salteranno tutti. Nessuno di noi ha la sfera di cristallo per sapere cosa avverrà, ma certo quell'equilibrio instabile che si è mantenuto in questi anni e che ha consentito al governo di avere una maggioranza anche molto forte è destinato a saltare. Quindi questo non si tratta di idiozie.